Cristina Trivulzio di Belgioioso nacque all'inizio dell'Ottocento a Milano, da una famiglia aristocratica e ricchissima, ma la sua vita fu ben lungi dall'assomigliare a quella di una donna dell'epoca. Per sua fortuna scoprì la sua vera vocazione, quella di giornalista, storica e politica, e la sua penna ci ha lasciato un quadro del Risorgimento italiano che, se la scuola non fosse uno strumento di propaganda di una storia di parte che volutamente viene trasmessa in modo falsato, dovrebbe essere parte dei programmi di studio. Si sposò a 16 anni e, cosa inaudita per l'epoca, si separò poco dopo. Grazie al suo patrimonio, a 20 anni si trovò indipendente, ma a bersaglio dei pregiudizi e delle malelingue. Non si scoraggiò. Viaggiò in tutta Europa, stabilendosi per più tempo in diverse città italiane, finché la polizia austriaca, date le sue simpatie per la causa italiana, non le confiscò il patrimonio, costringendola alla fuga a Parigi. Ma nemmeno allora Cristina si arrese e sempre trovò il modo di vivere, lavorare e dare il suo contributo alla causa in cui credeva. Fu amica di grandi donne attiviste politiche come George Sand e Anita Garibaldi. Quando il denaro le fu restituito, lei lo utilizzò per finanziare pubblicazioni e campagne per liberare l'Italia da quello che allora era l'oppressore. Fondò una rivista. Se potesse gettare uno sguardo alla situazione attuale, si renderebbe conto che nulla è cambiato, solo il nome dell'oppressore. Creò l'assistenza infermieristica per coloro che combattevano per la causa italiana nel 1948. Quasi contemporaneamente Florence Nightingale faceva lo stesso in Inghilterra. Creò un asilo per bambine e bambini poveri che la rese invisa ad Alessandro Manzoni, il quale commentò: «Ma se ora i figli dei contadini vanno a scuola, chi coltiverà i nostri campi?» Naturalmente i Promessi Sposi del Manzoni sono ancora parte dei programmi scolastici. Questa storia improbabile in cui le uniche due donne di rilievo sono una monaca che aveva una relazione sessuale con un bandito e una fanciulla che si salva grazie alla sua purezza e preghiera. Se non è propaganda questa. Conobbe e frequentò tutti i capi del Movimento di Liberazione dell'Italia, Cristina. Ne scrisse come chi vive i fatti in prima persona, con una straordinaria lucidità e capacità di smascherare le menzogne. Per questo la sua testimonianza è così importante e purtroppo attuale, in modo agghiacciante. Il suo sguardo di donna di buon senso, intelligente, colta, lungimirante, getta una luce nuova su quello che successe e che succede a questo paese che non si riesce a liberare dai parassiti. Se allora fosse stata lei a capo dell'Italia, probabilmente oggi non ci troveremmo nella situazione in cui siamo. Cristina fu tanto conosciuta e ammirata in vita quanto oggi è caduta, come altre donne meravigliose, nel dimenticatoio. In ogni minuscolo paese ci sono vie Mazzini, Cavour e Garibaldi, ma Cristina di Belgioioso, che fu attivamente partecipe e presente accanto a loro, è intitolata solo una viuzza laterale nella periferia di Milano. E questa è la storia delle donne che la nostra scuola vuole riscattare. Vi propongo l'ascolto del libro di Cristina Trivulzio di Belgioioso, Il 1848 a Milano e a Venezia. Universale Economica Feltrinelli del 2011. Da Devana, buon ascolto.